benvenuti a un nuovo numero di Indie Radio, il programma di informazione indipendente che potete ascoltare solo su Transizione di Fase. In questo numero ci occuperemo di difesa del territorio, cominceremo a parlare di quanto accade in Argentina, dove vi è una manifestazione dei campesinos argentini che dicono no alla mega miniera di litio che si vorrebbe costruire nei loro territori. Giungendo in Italia parliamo ancora una volta di NOTAV, sono stati segnalati dei lanci di lacrimogeni ad altezza Duomo da parte delle forze dell'ordine il 24 luglio scorso e ancora registriamo le bugie del mainstream sui manifestanti nel tentativo chiaro e manifesto di demonizzare la presenza del popolo NOTAV. Ma giungendo in Calabria parliamo della centrale del Mercure leggendo un comunicato del forum Stefano Gioia. Infine, sempre collegato alla questione della difesa del territorio e dei beni comuni, ricordiamo la festa dell'Acqua Reggio che è in preparazione per i primi di settembre. Leggeremo dunque un appello rivolto alla partecipazione per la definizione del programma. Infine, alcune notizie da Cosenza con la messa in rete del sito di Altra Cosenza, un sito che è in costruzione. E infine parleremo dei preparativi per la creazione di uno sportello di sempre carico sempre a Cosenza, che probabilmente a settembre sarà già attivo. Buon ascolto di Indie Radio e continuate ad ascoltare Transizione di Fase. Da Indimedia Calabria leggiamo una notizia che proviene da Indimedia Argentina e che parla dunque di questa lotta dei campesinos in difesa del loro territorio. In Argentina, in difesa del territorio e dei beni comuni nella zona della Ruta 56 Salinas Grande, più di 900 persone, delegati di 86 comunità e organizzazioni indigene campesine, Iuri, Salta e altre province sono presenti nella zona per manifestare la loro forte opposizione al progetto per la realizzazione di una grande miniera di litio. I manifestanti chiedono il rispetto di quelle terre che vorrebbero venissero dichiarate patrimonio collettivo, terre che appartengono ai campesinos, ai popoli indigeni della cuenca de Huayatoyoc. La manifestazione trova grande sostegno da parte delle organizzazioni sorelle di La Puma e del Movimento Nazionale Campesinos Indigeno. Yeah. come abbiamo già fatto tante volte, continuiamo a parlare di Notav. Il 24 luglio scorso, infatti, le forze dell'ordine si distinguono ancora una volta per il loro modo di fare non certamente ortodosso, quindi le vediamo impegnate in lanci di lacrimogeni ad altezza Duomo. Sparano dunque delle armi che nelle guerre vengono proibite e lo fanno anche ad altezza Duomo. Questa volta viene colpito anche un fotografo, probabilmente perché il fotografo può essere una minaccia più delle pietre magari. Infatti il fotografo è colui il quale riesce a documentare le belle azioni delle forze dell'ordine e quindi questo fotografo viene colpito al volto e viene ferito. Intanto le forze politiche si distinguono per il loro allinearsi alle scelte della TAV e quindi vediamo partiti come ad esempio il Partito Democratico, il PD, che continua a lodare la presenza la costruzione della TAV. E quindi si allontana sempre di più da quelle che erano le sue origini, ma questo non era necessario aspettare la questione della TAV per saperlo. E quindi ancora una volta vediamo i giornali, non da ultimo la Repubblica, che sono impegnati in una demonizzazione di tutta una valle, delle persone dunque che si professano no TAV. E vediamo dunque che vengono attaccate singoli manifestanti, singoli militanti no TAV, che vengono definiti come pericolosi perché appartenenti a antiche forze degli anni 70. E in realtà ancora questo esempio ci mostra come, malgrado il popolo no TAV abbia rispedito al mittente la questione dei Black Bloc, dichiarando che tutta la valle era fatta da Black Bloc, vediamo che il mainstream non si accontenta, non molla la presa e continua a descrivere la valle che resiste come un insieme di pericolosi terroristi, di gente dunque dalla quale diffidare perché è legata ad ambienti oscuri e poco raccomandabili. Ebbene, ancora una volta l'Italia vede camuffata e nascosta la verità. Da un lato abbiamo le forze del disordine che lanciano lacrimogeni e magari arriveranno prima o poi, che ne sappiamo, a usare anche altri mezzi, altre forme, altri proiettili. Dall'altro lato invece vediamo una valle che resiste per intero. dal sito di Difendiamo la Calabria leggiamo il comunicato del forum Stefano Gioia, delle associazioni e comitati calabresi e lucani per la tutela della legalità del territorio. Nel giorno dell'udienza conclusiva al TAR di Catanzaro sulla centrale Enel della Valle del Mercure, le posizioni degli attori di queste incredibili e incresciose vicende erano ancora una volta ben delineate. Da una parte Enel, con il suo progetto di rapina del territorio, degli interessi e dei diritti della popolazione, supportata da un imprenditore proveniente da terre ben lontane rispetto al Mercure che, inventandosi un fantomatico comitato procentrale, cerca di tutelare in realtà i propri interessi, altro che le migliaia di posti di lavoro, attraverso il supporto ad ogni desiderata dell'energia che ti ascolta. Dall'altra parte tutti gli altri. In primo luogo la gente che vive e lavora nella valle che, dalle entrate in funzione di quell'ammasso di metallo arrugginito e gonfio di amianto, noto come centrale del Mercure, avrebbe danni gravissimi, in primo luogo all'occupazione ed alla salute, e vedrebbe per di più irreversibilmente compromesso anche il diritto al futuro, vista l'incompatibilità del progetto dell'Enel con le linee di sviluppo economico che l'area protetta, ricadente bene all'interno del Parco del Pollino, si è data da tempo. Programmazione ribadita nel primo piano del parco approvato di recente, dove all'incompatibilità della centrale con il parco è dedicato un intero paragrafo. Piano da sottolineare, sottoscritto anche da quella regione Calabria che nell'ottobre scorso aveva dato l'autorizzazione all'Enel, caso evidente nella ben più benevole delle ipotesi di schizofrenia amministrativa. Assieme alle popolazioni della valle, inoltre, si sono schierate la regione Basilicata, i sindaci dei comuni di Vigianello e Rotonda, l'ente Parco del Pollino e importanti associazioni ambientaliste nazionali quali Italia Nostra, WWF, Forum Ambientalista Nazionale. Insomma, tutta quella serie di soggetti con cui l'Enel dovrebbe avere rapporti di ascolto, concertazione, collaborazione e delle cui indicazioni dovrebbe tenere gran conto, come espressamente prescritto nel suo codice etico, che evidentemente non deve essere noto né apprezzato dai dirigenti dell'energia che ascolta solo i propri interessi. Dirigenti quali con ogni evidenza antepongono al codice etico aziendale il profitto a tutti i costi, specie se il profitto va a loro e i costi alla popolazione depredata. Il forum Stefano Gioia, che da ormai 10 anni conduce questa battaglia di civiltà, democrazia e legalità, auspica che questa triste vicenda abbia al più presto l'attesa felice conclusione. Serenamente aspetto un giudizio che ristabilisca la verità e restituisca alla gente del Mercure il diritto alla salute, alla legalità, al lavoro, alla sicurezza sociale. In ogni caso, assieme a questa gente, non ci stancheremo mai di perseguire in ogni sede competente con tutti i mezzi democratici a nostra disposizione quei diritti che nessuno, neanche una multinazionale potente come l'Enel, riuscirà a conculcare. Affirma, ripetiamo, del forum Stefano Gioia, delle associazioni e comitati calabresi e lucani per la tutela della legalità e del territorio. She knows I never hold my shame. leggiamo ora il comunicato del Comitato Acqua Pubblica di Reggio Calabria, che invita tutte le realtà sociali e associative ad aderire all'organizzazione della Festa dell'Acqua, che si terrà alla Pineta Zerbi dal 2 al 4 settembre. Con i referendum del 12 e 13 giugno la popolazione italiana ha detto chiaramente di volere l'acqua fuori dal mercato e i profitti fuori dall'acqua. È stato un risultato affatto scontato, considerando i grandi interessi che ruotano attorno all'oro blu. Gli stessi interessi, gli stessi poteri forti, cui sembra non interessi nulla del voto popolare. Non intendono rinunciare neanche a uno spicciolo dell'enorme giro di denaro che ruota attorno all'acqua. Diversi sono i tentativi di cancellare il risultato referendario. Con la sempre buona per i potenti crisi finanziaria, si rilanciano a livello nazionale le privatizzazioni, mentre a livello locale la classe politica non intende dare ascolto agli stessi calabresi, concedendo sempre più poteri alla Sorica, all'SPA, la società che ha ormai in mano l'intera gestione del servizio idrico. Non possiamo sentirci perciò appagati del risultato ottenuto, ma dobbiamo comunque essere consapevoli della grande forza del popolo dell'acqua. Dobbiamo e vogliamo far vedere ai nostri amministratori, già dal rientro delle vacanze, per chi se lo può permettere, che l'ampia partecipazione sociale vista nei referendum pretende che la gestione del servizio idrico sia pubblica e partecipata. E lo vogliamo fare coinvolgendo tutta la cittadinanza, le associazioni, i partiti e tutte le realtà sociali in una grande festa, la Festa dell'Acqua. 3 giorni di iniziative, dibattiti, mostre, musica, giochi che si terranno dal 2 al 4 settembre alla Pineta Zerbi, per parlare di acqua e di beni comuni, ma anche di democrazia e partecipazione, perché si scrive acqua ma si legge democrazia. Il programma è in costruzione, se vuoi aderire, contribuire, proporre, scrivi a acqua@difendiamolacalabria.org, oppure se hai un account Facebook iscriviti al gruppo Festa dell'Acqua a Reggio Calabria. Il Comitato Acqua Pubblica di Reggio Calabria aderisce al coordinamento calabrese Acqua Pubblica Bruno Arcuri. All you have to do is move your body in whatever way feels comfortable for you. Just let yourself sink into the groove and move and move and move and move and move and move. Fix your eyes on a spot. Doesn't matter where. Just fix your eyes on one spot. Begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down. Wind down. Wind down. And relax. If you have any thoughts, just let them drift through your mind. Like beautiful clouds across a clear blue sky, just through your mind and away from you, through your mind and away, as you relax deeper, deeper and deeper, relax, just let go of stress and tension, let go of worry and doubt. Imagine a staircase standing in front of you with 10 wide, safe stairs down. Down to perfect relaxation. Down to peace and contentment. Down towards the happiness that you deserve. And as I count down from 10, take one step with each number. One step down. 10, 9, 8, un'altra notizia relativa all'area cosentina. Il movimento di Cosenza si prepara per le lotte di settembre e quindi dopo alcune riunioni delle quali vi abbiamo dato conto nelle nostre precedenti puntate di Indiradio, ora stanno preparando un piccolo portale di informazione della città di Cosenza che appunto si chiama Altra Cosenza, che è visitabile al sito www.altracosenza.net. Questo sito sperimentale è aperto chiaramente ai consigli e ai contributi di tutti coloro i quali vorranno farlo. Quindi vi invitiamo a visitare il sito e a dare i vostri contributi. Intanto, sempre a Cosenza si sta tentando di creare uno sportello per la precarietà, uno sportello al quale dovrebbero dunque rivolgersi i precari cittadini. In questo modo si vuole offrire un vero e proprio servizio capace di, chiaramente non di trovare lavoro alla gente, sarebbe veramente auspicabile sicuramente, ma improponibile vista anche la situazione cosentina nella quale si dovrà muovere questo sportello, ma sicuramente potrà essere questo un momento di analisi, di riflessione, di maggiore anche conoscenza del fenomeno del precariato. Certamente chi terrà lo sportello non sarà lontano dalle questioni del precariato, saranno tutte persone che probabilmente avranno vissuto o vivono ancora la drammatica condizione del precario nel lavoro, ma anche del precario che poi vede tutta la sua vita sociale, oltre che economica e quindi anche affettiva, essere minacciata ed essere modificata dallo status di precario. La precarizzazione dunque delle vite dovrà essere oggetto di analisi, oggetto di studio, ma troverà in questo sportello, come ci auguriamo che sia, anche un momento di lotta, di maggiore crescita, di consapevolezza, per meglio affrontare la situazione del precario, per meglio vivere dunque questa condizione. Condizione che dunque non dovrà essere subita, ma dovrà essere compresa, e da questa comprensione probabilmente potrà nascere un diverso approccio all'esistenza medesima. Negli anni scorsi si è tentato più volte, da parte anche del movimento, di affrontare la questione lavorativa, di affrontare la questione del precariato, ma in maniera anche marginale è stato fatto questo, e di conseguenza i vari lavoratori che si approcciavano al movimento, che venivano affiancati da persone vicine al movimento, non vedevano dietro di loro una forza o comunque una forma strutturata che permetteva un approccio diverso e complesso alla questione del precariato. attraverso invece lo sportello del precariato si potrà offrire alla città e ai cittadini una struttura, se così vogliamo definirla, capace di guardare in maniera diversa e critica alla questione del precariato. Nascerà dunque questo sportello del precariato a settembre a Cosenza. Don't go out tonight. Don't go out with no fire. Oh, your head's always to the ground, babe. All the sounds just a peppermint loud. Baby, listen. Well, now she tried so hard, so hard to be hit. She's shooting stars with her friends. She's shooting stars till the end. I think diamonds hit. She thinks it's really hit. Well, you wanna play the fool. You wanna be so cruel. You wanna shoot that. Well, don't you know that, babe? You better listen to me. Anche questa volta Indie Radio finisce qui, un saluto a tutti, continuate ad ascoltare Transizione di Fase e continuate a seguire i vari network di informazione indipendente. With her friends, lost shooting stars, till her